UFO, che facendo c'è? Ciao Mari, che facendo? Ciao Mari, ma che ho messo c'è? Questo non l'ho capita, scaccio la portante e si accendono le luci del cappellino di Natale. Attento, UFO!